Risponde la segreteria telefonica di RTS. Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita e dedicarla al tuo ragazzo o alla tua migliore amica, lascia un messaggio dopo il beep. Ciao, grazie. Pronto? Sono emozionata. No, niente, sono Valentina da Frattocchio e vorrei ascoltare Strap dei Jurassic Punk. Grazie. A sto punto comincio a pensare che questa cosa forse sarà vera però.